Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho sentito che mi accusate del cerchio magico. Allora, ho detto una cosa adesso scendendo, che di magico a Forza Italia ci sono solo io. E di volti che nuovi ancora a cui dopo 20 anni di guerre che mi fanno, sono ancora qui, vivo e vegeto, ancora con tanta voglia di combattere per la libertà mia e di tutti. Parola di Silvio Berlusconi, insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di magico c'è solo lui. Si parla appunto di questi cerchi magici, prima intorno a Bossi, poi intorno a lui, ma di magico, soprattutto per chi crede in Berlusconi, ha detto ci sono soltanto io. Ma a proposito di frasi del giorno, ve ne farei sentire un'altra, anche perché ci introduce, diciamo, alla gran parte poi degli argomenti che approfondirò stasera con vari ospiti. Qui non stiamo a poltrire negli uffici. Questo è un lavoro tra i più duri in senso assoluto che si possa pensare nella realtà italiana come nella realtà in giro per il mondo. E questo invece era Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, che sapete, insomma, ha creato un po' con una sua dichiarazione un putiferio in Italia tra opinione pubblica, tra osservatori, politici, eccetera, perché aveva detto all'idea del taglio di Renzi del suo stipendio, degli stipendi dei manager, super manager e dei manager della pubblica amministrazione, e aveva detto se me lo tagliano vado via. Insomma, poi parleremo proprio della spending review che dovrebbe riguardare appunto anche i manager pubblici e i dirigenti della pubblica amministrazione, che sono moltissimi. Voi quanto dite che dovrebbe essere pagato un dirigente pubblico, un dirigente ministeriale o che lavora nel settore dell'istruzione, dell'esercito, eccetera, delle pubbliche amministrazioni in giro, nelle regioni? Anche secondo il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, serve una maggiore equità tra il trattamento del manager e quello di un impiegato, perché sapete che la forbice è larghissima proprio, c'è una grande differenza. E a proposito di spending review e di equità, secondo il presidente del Consiglio Renzi, nessun manager pubblico deve prendere uno stipendio superiore a quello del presidente della Repubblica, cioè 239.181 euro lordi l'anno. Voi cosa ne pensate? C'è la pagina Facebook per i vostri messaggi e le vostre opinioni, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi al 349-238-6666. Ma nella prima parte, come sempre, vi riassumo la giornata. La crisi ucraina, Obama minaccia Putin, si fermi o la NATO è pronta a reagire, dice Berlusconi, commenta sulla Russia decisioni avventate. Yemen, l'italiano rapito è stato liberato con un blitz. Il governatore della Banca d'Italia Visco dice per tagliare il debito nessuna manovra e assicura torna l'interesse dei mercati sull'Italia. Province, governo battuto due volte sulla riforma del Rio, poi approvata, va in aula al Senato. Se passa, dice Renzi, via l'indennità per 3.000 politici. Pubblica amministrazione, la ministra Madia annuncia prepensionamenti per assumere i giovani e mobilità obbligatoria. Calcio, turno infrasettimanale del campionato, 30ª giornata al via con Roma, Torino e poi Ferrari. Per quanto riguarda Formula 1, Ferrari e Red Bull dicono questa Formula 1 non ci piace. Partiamo quindi dalla tensione crescente tra la Russia e l'Occidente, tra con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea. Il presidente americano Obama oggi ha chiuso i lavori del G7 all'Aia, avvertendo nuovamente Mosca sul caso ucraino. Ed è un giallo una telefonata della Timoshenko contro Putin. We have contingency plans and that every one of our NATO allies has assurances that we will act in their defense. Il messaggio di Barack Obama è chiaro: se la Russia non si fermerà, la NATO è pronta ad entrare in azione. Parlando al termine del summit sulla sicurezza nucleare all'Aia, il presidente americano ha precisato che in alcuni momenti l'azione militare può essere giustificata. Sta alla Russia, ha sottolineato Obama, dimostrare di essere responsabile e di rispettare le norme internazionali. Se andrà oltre, sono pronte sanzioni in settori come l'energia, la finanza e il commercio. Nel frattempo sta montando il caso Timoshenko, l'ex appassionaria della Rivoluzione Arancione, principale leader antirussia in Ucraina, smentisce, ma solo in parte, le dichiarazioni che le sono state attribuite. In un audio che ormai circola sul web, la Timoshenko, parlando al telefono con un deputato filorusso, suo rivale politico, si dice pronta a prendere un mitra e a sparare a quella canaglia, facendo riferimento a Putin. Timoshenko non smentisce questa parte, ma sostiene che l'audio dove si sente dire che bisognerebbe usare le armi nucleari contro gli 8 milioni di russofoni che vivono in Ucraina sarebbe stato manipolato dai servizi segreti russi. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Roma si prepara ad accogliere domani il presidente degli Stati Uniti Barack Obama all'aeroporto di Ciampino. Giovedì poi sarà ricevuto da Papa Francesco in Vaticano, poi l'incontro di Obama con Napolitano e Renzi. E a difendere il presidente russo oggi è intervenuto l'amico Berlusconi. Trovo antistorica e controproducente la decisione dei leader riuniti all'AIA di escludere la Federazione Russa dal G8 di ieri, così ha scritto l'ex presidente del Consiglio in una nota. Trovo davvero avventate e lontane, aggiunto dallo spirito costruttivo, tutte le decisioni prese in queste ore dalla diplomazia occidentale. E poi la notizia che arriva dallo Yemen: l'italiano rapito oggi pomeriggio è stato liberato dalle forze di sicurezza con un blitz qualche ora dopo il rapimento, lo ha annunciato il Ministero dell'Interno di Sana'a, la capitale yemenita. E passiamo alla pagina economica. Torna a sollecitare riforme strutturali il governatore di Banca Italia Visco. Ha detto oggi a Pavia che non ci saranno delle maxi manovre, e sull'Italia dice sta tornando l'interesse dei mercati. Segnali si erano già avuti nei mesi scorsi e l'ex ministro Saccomanni non aveva mancato di segnalarlo. Oggi a farlo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Sta tornando l'interesse per i mercati italiani, anche per quello dei titoli di Stato, dice. È qualcosa che ha solo parzialmente a che fare con la condizione del paese, ma è più che altro il riflesso, per usare parole dello stesso Visco, dell'abbattimento del rischio di disgregazione dell'area euro. È su questo calo del rischio, spiega, che si innesta la diminuzione dello spread. Cantare vittoria, festeggiare o celebrare però non serve. Il governatore ricorda come in un contesto ancora carico di tensioni basta poco ad incrinare la fiducia degli investitori, e riporta alla mente quel maledetto periodo tra l'estate del 2011 e la primavera del 2012, quando la quota di titoli pubblici italiani in mani estere scese drasticamente. C'è solo una cosa da fare: rendere sostenibile il nostro debito, spiega ancora Visco, e per farlo, anche in vista dell'entrata in vigore del Fiscal Compact, c'è solo una strada, quella della crescita. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo Renzi accelera sulle riforme e lavora al DEF, cioè al documento di economia e di finanza. I prossimi sono 10 giorni cruciali per il governo, che sui numeri oggi ha avuto qualche problema in Senato sul disegno di legge Delrio. Il voto finale del Senato arriverà domani, ma quante difficoltà nelle ultime ore per il disegno di legge di riforma delle province. L'ultima in ordine temporale, la pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Movimento 5 Stelle in aula contro il provvedimento. Questa è stata infatti respinta con soli 4 voti di scarto. I sì sono stati 112, i no 115 e una sola astensione che a Palazzo Madama vale voto contrario. Un rischio dunque non previsto per l'esecutivo, se si pensa che la maggioranza che ha votato la fiducia al governo Renzi raggiunse quota 169 senatori. Problemi per il disegno di legge Delrio e in precedenza anche in commissione affari costituzionali. Qui il governo è andato sotto 2 volte, prima per alcune assenze del nuovo centrodestra e poi di un rappresentante dei popolari per l'Italia, Mario Mauro, ex ministro della difesa, un'assenza che lo stesso Mauro ha definito politica. È così passata una norma proposta da SEL che restituisce alle province le competenze sull'edilizia scolastica. È stato quindi bocciato un emendamento del relatore Russo del PD che fissa un tetto alle indennità dei presidenti delle province. Segnali dunque di mal di pancia a Renzi dalla sua stessa maggioranza per un percorso di riforme che si annuncia ad ostacoli. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma in cima alle preoccupazioni del paese, anche quindi di Renzi, del governo, c'è sempre il lavoro. L'ha confermato anche il ministro Poletti, mentre la ministra Madia ha annunciato prepensionamenti nella pubblica amministrazione per aiutare i giovani. Sana mobilità e prepensionamenti per ringiovanire la macchina dello Stato. Questa è la ricetta del ministro Madia, che torna così sull'ipotesi di un taglio degli organici della pubblica amministrazione, mentre smentisce che ci siano 85.000 esuberi. L'idea sarà quella di provare ad avere delle uscite anche con dei prepensionamenti, ma tutto questo per rimettere energie nella pubblica amministrazione. Quanto al coinvolgimento dei sindacati nella riforma della pubblica amministrazione, Madia spiega che non è obbligatorio, non è detto che ci saranno tavoli di confronto perché i tempi sono stretti, parole sulla scia di quanto affermato da Renzi nei giorni scorsi e che riaccendono lo scontro con i sindacati. Rossana Dettori, segretario della funzione pubblica della CGIL. Io sono sufficientemente allibita, cioè nel senso che io speravo davvero che ci fosse un cambio diverso. Sul capitolo lavoro interviene invece il ministro Poletti. Il governo spiega sta lavorando su interventi che riguardano IRPEF e detrazioni e non ci sarà un bonus in busta paga. Poi torna a parlare della situazione italiana e della piaga della disoccupazione. Credo che il 2014 sarà ancora un anno di grande sofferenza. La dinamica dell'occupazione per il 2014 continuerà a essere una dinamica molto ma molto pesante. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla di questo volevo dire, ne parleremo più tardi poi della questione appunto dei dirigenti e anche della pubblica amministrazione, di quello che ha detto oggi la ministra Madia. Parliamo invece di evasione fiscale. 7 anni dopo l'inizio dell'indagine a loro carico, il procuratore generale di Milano ha chiesto l'assoluzione di Dolce e Gabbana. E arriviamo così alla cronaca. Per 1 anno e mezzo ha costretto la compagna a subire botte e maltrattamenti, tanto che nel 2012 la donna era stata ricoverata per 15 volte in ospedale. L'uomo Enrico Massimiliano Pedrazzini, di 42 anni, è stato arrestato dalla polizia a Rho, vicino Milano. La convivente, nonostante le botte, non aveva mai denunciato l'uomo, ecco perché è arrivata la 15ª volta. Nei giorni scorsi però ha trovato il coraggio di chiamare la polizia durante l'ennesimo episodio violento tra le mura domestiche. E avrete sentito parlare di questo progetto di fare un resort sull'Ermo Colle di Leopardi. C'è stata oggi la presa di posizione del Ministro della Cultura. Il Colle dell'Infinito di Leopardi è patrimonio della letteratura e della cultura italiana e va preservato. Così il ministro dei beni culturali Dario Franceschini interviene nella polemica a metà strada tra edilizia e letteratura che riguarda il celeberrimo luogo di Recanati. Franceschini ha chiesto agli uffici competenti di ribadire il parere negativo sui progetti che incidono sull'area. La vicenda vede contrapposti da una parte la proprietaria di alcuni fabbricati a ridosso del Colle, dall'altra Italia Nostra, il FAI e la famiglia Leopardi. La donna ha presentato nel 2012 un progetto che prevede la trasformazione di una casa colonica dell'Ottocento in struttura residenziale, con l'ipotesi anche di un parcheggio sotterraneo. La sovrintendenza ai beni culturali delle Marche ha dato parere negativo, ma la signora non si è arresa e ha presentato un ricorso al TAR, vincendolo. La zona è ancora intatta dai tempi di Leopardi e protetta da un vincolo che però non prevede il divieto assoluto di costruzione. Il conte Vanni Leopardi, discendente del poeta dell'Ermo Colle, ipotizza un progetto che abbia meno impatto sulla zona, così a effetto giorno. Dovremo convincere noi recanatesi, l'imprenditore, a fare un progetto meno pesante, tutto lì. Invece così c'è uno stravolgimento di questa parte così sensibile del Colle. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di cultura, vedo adesso un'agenzia di questi istanti nella quale si legge la nomina di Ninni Cutaia, direttore di teatro di Roma, è incompatibile con il ruolo di dirigente per attività teatrali che ricopre al Ministero di Beni Culturali e Turismo. Questo lo dice il ministro Dario Franceschini, ministro della Cultura. Secondo quanto apprende l'ANSA, lo ha comunicato oggi al sindaco di Roma, Ignazio Marino. Quindi c'è una carica, una nomina incompatibile. Ma siamo al calcio adesso con Dario Ricci e con il campionato di Serie A. È un anticipo, Dario, oggi? Eh sì, anticipo, c'è proprio la Roma protagonista, Roberta, siamo al 25esimo del primo tempo all'Olimpico, Roma-Torino ancora sullo 0-0 e devo dire Taquino che langue di segnalazioni, finora si è visto ben poco, proprio in questo istante un tiraccio di Nainggolan che credo sia finito fuori dallo stadio. Allora, t'aggiorno sul fatto che il Bayern Monaco ha conquistato di fatto lo scudetto tedesco vincendo a Berlino per 2-0 e è significativo perché è un record con 7 giornate d'anticipo, praticamente da qui alla fine della stagione il Bayern Monaco potrà concentrarsi soprattutto sulla Champions League di cui è già detentore e che il Manchester City è in vantaggio per 1-0 sullo United nel derby di Manchester, appunto. Grazie anche di questi aggiornamenti, caro Dario Ricci. Poi ci sentiamo invece per Roma-Torino per capire come prosegue la partita. Proseguiamo adesso, tra poco, adesso c'è la viabilità, poi riprendiamo e con alcuni argomenti in particolare. Tra poco incominceremo a parlare, visto che questa è una puntata che, stando sui fatti di oggi, si concentrerà soprattutto sui tagli, sulla spending review, dove sono accettati, dove meno, anche dall'opinione pubblica, insomma. Poi capirete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Avete visto, pochi istanti per aggiornare chi sta viaggiando. Tra poco il primo ospite di questa sera. Leggo già alcuni vostri messaggi sui stipendi dei dirigenti pubblici. Dice Max: stabilire un principio democratico, stipendio di base più meriti se ci sono, quando ci sono segni tangibili di capacità, no, dice, andazzi, sprechi e indennità varie. Maurizio Terni dice: Moretti dice che la sua indennità era portata alla responsabilità, ma io non ho mai visto un manager pagare anche solo finanziariamente per i danni causati. Non so bene a cosa si riferisca, perché un altro ascoltatore invece parlava del fatto che sia indagato nella strage di Viareggio, ma è in corso il processo e quindi sono delle presunte responsabilità che bisognerà accertare o meno. Ma adesso vi ricordo i titoli. La crisi ucraina, Obama minaccia Putin, si fermi o la NATO è pronta a reagire, dice Obama, e Berlusconi commenta: sulla Russia ci sono state decisioni avventate. Yemen è stato liberato con un blitz, l'italiano rapito. Il governatore della Banca d'Italia Visco dice: per tagliare il debito non ci sarà nessuna manovra, e assicura torna l'interesse dei mercati sull'Italia. Province e governo battuto due volte sulla riforma del Rio, poi approvata va in aula al Senato, se passa annuncia Renzi, via l'indennità per 3.000 politici. Pubblica amministrazione, la ministra Madia annuncia prepensionamenti per assumere i giovani e mobilità obbligatoria. E per il calcio, turno infrasettimanale del campionato, la 30ª giornata al via con Roma-Torino. Quindi ve lo raccontavo a proposito delle province. Renzi sta accelerando sulle riforme, sapete che vuole abolire le province. Oggi però il governo è stato battuto due volte su questa riforma del Rio, in commissione al Senato, poi in realtà è passata ed è andata in aula al Senato, dove appunto verrà vagliata, anche se bisogna dire non è un segnale estremamente positivo questi primi inceppamenti sulla questione delle province, su questa riforma delle province, anche perché in realtà poi è passata al Senato, quindi uscita dalla commissione, proprio per un soffio, perché è stato respinto un emendamento del Movimento 5 Stelle solo con 4 voti di scarto. Se fosse passata questa pregiudiziale del Movimento 5 Stelle, questo avrebbe affossato la riforma. Chiamo in causa quindi uno dei giornalisti che più si è occupato di queste questioni, in particolare dell'annosa vicenda delle province, che è Sergio Rizzo. Ciao Sergio. Ciao, buonasera. Editorialista e inviato del Corriere della Sera. Che ti sembra che sia sulla, insomma, in dirittura d'arrivo questa riforma, o il fatto appunto che per 4 voti sia riuscita a passare intanto al Senato? Vabbè, qui c'è un problema di senso di responsabilità che mi pare che manchi. Che mi pare che manchi proprio il senso di responsabilità. Adesso si può discutere tutto quello che vogliamo, questa riforma certamente ha degli aspetti che non convincono neanche me, se devo essere sincero, fino in fondo, però cioè, piuttosto che niente meglio piuttosto, no, si dice, cioè, voglio dire, da quant'è che stiamo parlando di questa roba? Allora che finalmente si cominci perlomeno a dire che questi consigli regionali e provinciali non devono più essere eletti, mi sembra il minimo sindacale, no? Io sinceramente vedo che c'è un impazzimento generale che non mi piace per niente, no? Non vedo il senso di responsabilità che in queste circostanze sarebbe necessario. Ma aiutaci a capire. Vedo il prevalere di interessi particolari, la voglia di fare degli sgambetti, di mettere in difficoltà l'avversario, più che l'interesse a far passare una linea che no, delle proprie convinzioni. Vedo più, diciamo, una voglia di far affondare la barca, no? Far affondare la barca è uno sport nel quale siamo veramente bravi, questo sport di continuare a fare buchi nella barca che fa acqua, no? E oggi hanno aperto qualche altro buco, no? Saranno contenti finalmente questi qua. Poi sarebbe interessante sapere chi sono, perché alcuni sappiamo che c'è il partito preso, via, quindi 5 Stelle si sa come, che loro hanno il problema che Renzi, se fa qualche cosa, poi subiscono il contraccolpo elettorale, quindi diciamo si può paradossalmente anche comprendere il motivo, ma ci sono altri che invece sinceramente non riesco a capire, anche perché non erano tutti d'accordo su questa cosa delle province, o mi sbaglio? Infatti, così vari partiti, varie maggioranze nel tempo degli anni hanno annunciato l'abolizione delle province, ma aiutaci a capire, dicevo Sergio Rizzo, questa riforma significa, va verso l'abolizione delle province o una riforma, semplicemente qualche modifica, qualche cambiamento? Non è l'abolizione, il problema è l'abolizione delle province, è che le province sono previste dalla Costituzione, per cui se non si cambia la Costituzione, tu quello che puoi fare è nel frattempo svuotarle, per cui le rendi inutili sostanzialmente, no? Questo è l'unica cosa che puoi fare, quindi le lasci in vita svuotate senza i consigli nominati, con una serie di nominati, vuol dire eletti, con una serie di scusate, di funzioni ridimensionate, Tra l'altro oggi, visto che gli hanno ridato di nuovo la competenza sull'edilizia scolastica. Questo dicevo, se le vogliono eliminare cosa gli danno? Ma no, ma è il gioco che dico, ma non, chi l'ha fatto? È l'opposizione, non è la maggioranza. È il buco nella barca, no? Cioè il gioco a bucare al fondo della barca, questo è la cosa. Lì ci avranno messo lo zampino anche qualcuno del partito delle province che, come sappiamo, è molto agguerrito ancora nonostante tutto, perché poi questi sono soldi, sono soldi, pochi dicono che sono pochi, ma intanto sono soldi, intanto sono piccole camarille locali, sono piccole cose che fanno volume in periferia, non so come dire, no? Forse le regioni sono anche peggio, ma comunque sia anche lì non abbiamo visto tutti i colori nelle province, quindi si capisce, si può ben capire perché ci sia questa reazione così, così subdola, se vogliamo, no? Sergio, però quello che molti si chiedono nell'opinione pubblica, poi lasciamo stare gli interessi, le lobby, le cose, ma se davvero dovessero mai abolirle queste province, tutta la gente che ce l'aveva, la preoccupazione, no? Già siamo in un livello di disoccupazione altissimo. Ho sentito parlare di prepensionamenti oggi finalmente, no? Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dirla questa parola. Maddia, ma non saranno tutti così vecchi da essere prepensionati, però? Gli altri si spostano. D'altra parte succede così in tutte le aziende. Noi in aziende editoriali abbiamo avuto dei tipografi che sono diventati trattorini o che sono diventati altre cose. Noi stessi giornalisti, cambiando le funzioni, abbiamo spesso dovuto cambiare mestiere. C'è gente che faceva la cronaca sulla carta, adesso fa l'online perché la carta sta morendo o sta comunque è ferita, non so come dire. Quindi anche noi, poi come tutti, no? Possono cambiare mestiere, tanto più in un luogo come l'amministrazione pubblica nel quale non è previsto licenziamento. Quindi io sinceramente, cioè in una situazione in cui c'è gente che perde il posto di lavoro, sono milioni di persone che disoccupate, che qualcuno sia costretto nella pubblica amministrazione a spostarsi di ufficio, francamente mi turba assai poco, se devo essere sincero. Dovrebbe turbare molto poco anche loro. L'ultimissima domanda, Sergio Rizzo, ha twittato, sai che Renzi dalle 6 del mattino, proprio ancora quando deve spuntare il sole, comincia a twittare, dice: se passa questa riforma, via l'indennità per 3.000 politici. Si riferisce a politici evidentemente delle province? Ma lì poi sono quelli che prendono i soldi veri, sono i presidenti, gli altri prendono i gettoni, soprattutto c'è un meccanismo che poi un giorno andrebbe spiegato, questo meccanismo adesso non abbiamo tempo, ma è un meccanismo per cui di fatto le province si fanno carico dello stipendio di questi che sono distaccati quando vanno a lavorare nei consigli provinciali, no? Sono stati anche degli abusi, ci sono stati dei processi perché si è scoperto che venivano assunti dai fratelli, dai cugini o dalle mogli il giorno dopo essere stati eletti in consiglio provinciale, e poi la provincia, no, ripagava lo stipendio finto, no, all'azienda della moglie o del fratello. Quindi diciamo che poi lì ci fosse molto altro da... ci fossero molte cose da mettere a posto, anche se fosse rimasto in piedi quel vecchio sistema, era innegabile, no? Però ecco, secondo me il segnale c'è, se passa questa cosa, adesso al di là di tutte le critiche e le osservazioni che si possono fare alla legge, il segnale c'è. Vediamo dove va a finire questo segnale. Grazie. Vediamo. Sergio Rizzo, grazie a voi. Ciao. Buonasera. Sergio, vedo un messaggio di Valeria che si firma ex manager privata e consulente nel pubblico. Dice: presidenti e amministratori delegati di enti pubblici non hanno responsabilità di risultato a causa delle interferenze politiche e per questo non devono avere stipendi simili ai manager privati, lavorano di più per risultato e quadri intermedi. Ma adesso saluto Davide Colombo del Sole 24 Ore. Ciao Davide. Ciao, eccoci. Perché a proposito di tagli, prepensionamenti, spending review eccetera, prima si parlava di province, adesso parliamo invece della pubblica amministrazione, che è anche un po' il filo conduttore oggi della puntata, e sentiamo che cosa ha detto la ministra della pubblica amministrazione Madia oggi. L'idea sarà quella di provare ad avere delle uscite anche con dei prepensionamenti, ma tutto questo per rimettere energie nella pubblica amministrazione, per aiutare giovani, ragazze e ragazze a entrare nella pubblica amministrazione. Sono anni, ci sono generazioni che non hanno avuto un canale sano di accesso. Non parliamo di esubili, ma parliamo di prepensionamenti e poi di rimissione di risorse e quindi di energie nuove, giovani, nella pubblica amministrazione. Quindi Davide Colombo ha un po', dici tu, rassicurato la ministra Madia dicendo, quando il commissario straordinario per la spending review aveva detto, Cottarelli, in questi giorni ci sono nella pubblica amministrazione 85.000 esuberi, tutti si sono immaginati fosse esuberante questo numero e quindi dovesse uscire, tracimare dalla pubblica amministrazione, andarsene a casa. Insomma, invece lei dice si tratta in realtà di prepensionamenti e anche di mobilità, di spostamenti. Sì, ma dunque, intanto gli esuberi della pubblica amministrazione per definizione sono dei dipendenti, dei funzionari, degli impiegati che vengono definiti tali nel momento in cui si chiude un'amministrazione, no? Oppure si ridisegna il perimetro di questa amministrazione e il personale che ci lavora risulta in esubero rispetto al fabbisogno minore che si è deciso di determinare. Questo personale in esubero, cioè o eccedente rispetto alle funzioni richieste, è già stato individuato in circa 11.000 unità con la spending review del 2012, il decreto 95 del governo Monti, viene per lo più gestito con prepensionamenti, tra l'altro non sono mai stati forniti dei dati su quanti sono stati i prepensionamenti tra quegli 11.000, di cui il 28% in INPS e INAIL, 7.400 nella pubblica amministrazione centrale. Non sono mai stati forniti dati su quanti di questi sono in effetti già stati avviati al prepensionamento, quanti non lo sono. L'altro, come dire, strumento di gestione di questi lavoratori individuati come in esubero, cioè eccedenti rispetto alle minori funzioni decise, per esempio se chiudo il CNEL c'ho 70 esuberi, perché tanti sono i dipendenti del CNEL, e questi 70 esuberi li devo gestire o prepensionando coloro che hanno maturato i requisiti per il prepensionamento, per il pensionamento, oppure gestendo una procedura di mobilità e di trasferimento di questi impiegati, di questi funzionari ad altre amministrazioni che invece hanno dei vuoti di organico che sono sottodimensionati rispetto alle funzioni richieste. Da questo punto di vista volevo solo dire una cosa diversa rispetto a quello che ho sentito dire prima il collega Rizzo. Sì. Non è vero che nella pubblica amministrazione non è previsto il licenziamento. Il licenziamento è previsto dalla legge, basta applicarla e esiste il licenziamento, cioè se alla fine della procedura di mobilità non viene individuata della procedura di messa in disponibilità di un lavoratore eccedente non viene individuata una possibile alternativa di collocamento, la norma, cioè già esiste adesso la possibilità di licenziare nella pubblica amministrazione, nessun governo l'ha mai attuata, però è una possibilità. È una possibilità. Sì. Aspetta, invece, se posso dire un'ultima cosa. Sì? Se vuoi poi dimmi tu. Rispetto a quello che ha detto il Ministro, mi pare che il Ministro ha ancora assunto una, come dire, posizione molto larga, come diciamo, molto interlocutoria, perché gli esuberi sono esuberi, dopodiché che tu decidi di prepensionarli o di provare a gestire con la mobilità tra diverse amministrazioni i loro destini, ma intanto li hai definiti come esuberi, no? E la seconda cosa che mi sembra molto interlocutoria è facciamo uscire quelli più anziani per dare accesso ai giovani. Allora, un dato, in questo momento l'età media nella pubblica amministrazione dopo gli anni dei tagli lineari, dei blocchi del turnover, gli ultimi 4-5 anni, diciamo, l'età media è di circa 50 anni oggi nella pubblica amministrazione e diciamo che sotto i 30 anni trovi tra il 2 e il 3% dei dipendenti pubblici, no? Questo è dovuto al fatto appunto che hai bloccato i concorsi, hai bloccato le assunzioni. Hai creato con questo blocco un enorme polmone di lavoro precario. Ci sono circa 300.000+ precari che lavorano per le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e tutti costoro non possono entrare se non vincono un concorso, perché fino a che la Costituzione vigente prevede che nella pubblica amministrazione si entra per concorso, tu quando hai finito di fare il precario per la PA, se poi non fai un concorso e non lo vinci, vai a fare il precario da un'altra parte, insomma. E vai a fare il precario del privato. Quindi diciamo che l'ipotesi così per ora messa avanzata dal ministro, cioè facciamo uscire gli anziani per dar più accesso ai giovani, è una proposta non di spending review, ma di come dire, riapertura del turnover, che se così fosse è una notizia, nel senso che va in controtendenza rispetto a quello che ha detto fin qui il Presidente del Consiglio, che è rispetto alle analisi che sono state presentate da Cottarelli, cioè dal commissario allo spending review, il quale prevede 85.000 esuberi, vale a dire una riduzione degli attuali organici della pubblica amministrazione di 85.000 unità. Tieni conto che i dipendenti pubblici di questo paese si sono ridotti di 300.000 unità negli ultimi 4 anni. Insomma, diciamo, Davide Colombo, che adesso purtroppo dobbiamo lasciarci, ma che la situazione è molto più complessa di quello che sembra, quindi bisognerà veramente non fare come gli elefanti sui cristalli, ma muoversi con una certa prudenza, con una certa attenzione. Davide Colombo, io ti ringrazio intanto, tanto avremo modo di ritornarci molto su questi argomenti. Adesso devo assolutamente andare in pubblicità, questo naturalmente viviamo, come voi sapete, insomma, si usa dire così, ma è così effettivamente. Vedo tanti dei vostri messaggi e tra poco parleremo degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei dirigenti, degli altri dirigenti della pubblica amministrazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi, le vostre opinioni, la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo brevemente i titoli e poi parleremo degli stipendi degli alti dirigenti della pubblica amministrazione. Obama minaccia Putin, sull'Ucraina si fermi, dice o reagiremo. Bufera sulla Timoshenko, avrebbe fatto una telefonata in cui avrebbe detto sparerei al presidente russo con un mitra. Governo battuto sulle province, poi però il disegno di legge passa all'Aula del Senato. Renzi accelera sul programma, ultime limature al testo per modifiche sul Senato e titolo quinto. E poi la ministra Madia che dice prepensionamenti fra gli statali per aiutare i giovani e il ministro Poletti annuncia niente bonus in busta paga, lavoriamo piuttosto alle detrazioni. Sapete naturalmente che in questi giorni è montata moltissimo la polemica dopo la dichiarazione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, che di fronte a un possibile taglio del suo stipendio, a proposito di spending review che dovrebbe toccare naturalmente non solo le persone comuni, chi ha meno, ma soprattutto chi ha di più, perché Renzi vorrebbe ristabilire un po' di equità, ha detto: se mi tagliano lo stipendio io sono pronto ad andarmene via. Insomma, ci sono state, diciamo, molte reazioni dall'opinione pubblica, ma anche nella politica ci sono state effettivamente diciamo delle risposte spesso abbastanza drastiche. Si pone quindi un problema, evidentemente, perché la scia di questa polemica va avanti anche questi giorni, perché sembra che il Presidente del Consiglio Renzi abbia detto che nessun manager pubblico deve prendere uno stipendio superiore a quello del Presidente della Repubblica, cioè di 239.181 euro lordi l'anno, ma al momento non è chiaro se questo tetto dovrebbe applicarsi ai dirigenti apicali del pubblico impiego, ai presidenti e amministratori delegati delle società pubbliche o entrambe le categorie. Insomma, il Ministero del Tesoro vuol far chiarezza, sembra che già una mossa dovrebbe partire da aprile, dovrebbero scattare i primi risparmi. Si tratta di un decreto ministeriale firmato già dall'ex ministro Saccomanni, però poi su questo bisognerà fare chiarezza. Invece su questo argomento, che riguarda il nostro paese da tanti e tanti anni e ci fa veramente essere probabilmente all'apice di una classifica dei dirigenti pubblici più pagati, probabilmente in Europa ma non solo, vorrei sentire il professor Roberto Perotti, che saluto. Professore, benvenuto a Effetto Notte. Buonasera. Roberto Perotti è docente di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, è stato consulente del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della Banca Interamericana per lo Sviluppo, della Banca Centrale Europea, della Fed, della Banca d'Italia. Insomma, quindi avrà competenza e cognizione e voce in causa per dire cosa ne pensa di questa questione. Probabilmente è tutta italiana, professore? Non so se è tutta italiana, ma sicuramente l'Italia ha un problema. È importante, secondo me, distinguere due aspetti. Uno, i dirigenti dell'amministrazione pubblica, dello statale, regionale, provinciale, a livello nella magistratura, nell'esercito, in tutti i rami dell'amministrazione pubblica. E l'altro proprio i manager pubblici, cioè gli amministratori delegati delle società per azioni che fanno parte, che sono possedute in gran parte o totalmente dallo Stato, dalle regioni, eccetera. Sulle prime, cioè sui primi dirigenti, è abbastanza facile fare un confronto, si prende, non so, i dirigenti di prima fascia di un ministero, si confronta con lo stesso ministero di un altro paese, e per quel che ho visto io, credo non ci siano dubbi che l'Italia, i dirigenti italiani sono più pagati, non solo i dirigenti ministeriali, ma anche i dirigenti a livello delle province, i segretari comunali, a tutti i livelli. E lì si può tagliare parecchio, secondo me. Per esempio gli ambasciatori prendono 2,5 volte i loro colleghi tedeschi, i giudici della Corte Costituzionale prendono 500.000 euro, che è quasi 3 volte i loro colleghi americani, insomma la Corte Suprema americana non è che conti poco. Cosa vorrà dire, professore, che in Italia sono bravissimi, che sono insuperabili? Come mai c'è questo divario? No, non credo che voglia dire questo, perché non credo che i giudici della Corte Suprema americana siano tutti degli incapaci. Il divario è dovuto al fatto che è molto semplice, che le elite italiane hanno usato la pubblica amministrazione per darsi un sacco di soldi. E poi invece ci sono i manager, di cui forse si parla di più in questo periodo grazie all'uscita di Moretti. Lì il problema è evidente, cioè se si pagano troppo poco, alcuni di questi hanno anche un mercato nel settore privato e potrebbero andarsene, e questo è quello a cui faceva riferimento Moretti, magari in Italia o all'estero se ne vanno. Però è chiaro che c'è stato del sistema si sono approfittati anche lì, ci sono un sacco di società pubbliche che sono dirette da persone che non hanno alcuna esperienza manageriale, sono ex politici o ex sindacalisti o faccendieri, insomma non hanno alcun mercato, se andassero fuori da lì con il loro CV non credo che ne prenderebbe nessuno, e prendono centinaia di migliaia di euro. Poi ci sono alcuni manager che sono effettivamente bravi, il problema è che se non si fa niente se ne approfittano quelli che non hanno alcun mercato. Quindi la mia impressione, la mia personale opinione è che un tetto ci voglia, magari non necessariamente quello del Presidente della Repubblica per i manager pubblici, perché insomma i manager pubblici nel settore privato guadagnano molto più di un Presidente della Repubblica in qualsiasi paese, però un tetto ci voglia per evitare che la gente se ne approfitti. Soprattutto forse, professor Perotti, per i dirigenti della pubblica amministrazione, no? No, per quelli sicuramente, quelli lì anche lì, per quello secondo me non più del Presidente della Repubblica è un target secondo me perfettamente legittimo. Per i manager pubblici bisogna pensarci, ma sicuramente certi numeri che si vedono adesso non si possono accettare secondo me. Professore, a proposito quindi di spending review, quando l'indignazione popolare ormai monta da tanto tempo, no? Bisogna prendere soprattutto da chi guadagna di più e guadagna troppo e non dai soliti noti, però poi c'è sempre qualcuno che dice vabbè, ma non facciamo del populismo, demagogia del populismo, ma tanto non si riesce a ricavare molto da questi tagli, come anche nella politica si dice anche in questo caso. Però mi sembra che lei abbia fatto un calcolo secondo il quale, intanto dice, questa struttura remunerativa è irragionevole, si potrebbe davvero fare dei grossi risparmi tagliando quella senza lasciare nessuno senza lavoro oppure gettare sul lastrico. Sì, è molto difficile fare dei calcoli, ma così calcoli un po' approssimativi, ipotizzando un taglio medio del 20% alle posizioni apicali, e secondo me in certe posizioni apicali si può tagliare anche più del 20%. Non è 800 milioni, 1 miliardo, si tirano fuori facilmente, che oltre ai tagli della politica, questi sono solo per i dirigenti, che non sono tantissimi e non sono neanche da buttare via. Insomma. Certo, visto come stiamo. In chiusura, professor Perotti, secondo lei Renzi riuscirà in questa impresa, a parte tutte le altre imprese che si è proposto, ma in questa? Beh, questo purtroppo non lo so, credo che non lo saprà nessuno, però la mia impressione è che faccia bene in ogni caso a provarci, perché se anche dovesse fallire, perché è inutile illudersi, poi ci sarà, se anche dovesse riuscisse a far passare qualcosa in Parlamento, poi ci saranno i ricorsi al TAR, i ricorsi alla Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Quindi non sarà facile e durerà tanto, ma se anche non dovesse riuscirci, dovesse affrontare tanto contenzioso, in ogni caso da un punto di vista politico, secondo me può solo guadagnarci. Grazie professor Roberto Perotti, grazie, speriamo. Arrivederci. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, stavo leggendo anche un'agenzia di una dichiarazione che ha fatto De La Valle, il patron di Tods, 8 e mezzo sulla 7 dicendo che molti trombati della politica sono nei posti pubblici, vengono nominati lì, a proposito delle nomine prossimamente dei vari enti pubblici, e dice ecco, quelli dovrebbero andare a casa. Non so cosa ne pensate voi, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, ma intanto vi ricordo anche quali sono stati i titoli principali della giornata. Naturalmente sempre in primissimo piano la crisi ucraina, la tensione tra Russia e Occidente, Obama minaccia Putin, si fermi o la NATO è pronta a reagire. Yemen, l'italiano rapito è stato liberato con un blitz, il governatore della Banca d'Italia Visco dice che torna l'interesse dei mercati sull'Italia, province, governo battuto 2 volte sulla riforma del Rio, poi viene approvata e va in aula al Senato, e se passa assicura Renzi via l'indennità per 3.000 politici, pubblica amministrazione, la ministra Madia annuncia prepensionamenti per assumere i giovani e mobilità obbligatoria. Poi è in corso la partita Roma-Torino, poi più tardi sentiremo quali sono gli aggiornamenti. Ma intanto saluto un altro ospite. No, sono i nostri 3 minuti d'Europa, i nostri 3 minuti d'Europa, sempre con qualche ospite naturalmente, che però è Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, che commenta il trionfo al primo turno delle elezioni comunali francesi del Front National di Marine Le Pen di ieri, dicendo che la Lega ha molto in comune con il partito di estrema destra francese. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schipisi. Europa 24 notte. Verso le europee. I temi sono comuni, un'Europa senza euro che recupera quindi speranza, futuro, dignità, lavoro, un'Europa che difende i suoi confini e quindi dice no a un'immigrazione di massa, un'Europa che difende i suoi prodotti e quindi un'Europa fondata sul lavoro sostanzialmente, e quindi i tratti sono assolutamente comuni, ci collaboravamo prima e ci collaboreremo adesso, stiamo costruendo una grande alleanza per un'altra Europa che non ha l'euro fra le scatole, perché l'euro sta ammazzando quello che rimane dell'Europa. Ma anche Matteo Renzi sta, in realtà, dice almeno di star combattendo per un'altra Europa, sta portando avanti una sorta di braccio di ferro anche sul vincolo del 3%, sulla richiesta di una maggiore elasticità. Con l'euro sono tutti discorsi piantati per aria. Cioè, uno, Renzi, può far finta di alzare la voce con la Merkel, ma con una moneta che non corrisponde all'economia reale, che è una moneta di occupazione tedesca. Renzi bleffa, ma come tutti quelli che non mettono in discussione l'euro. L'euro è finito, sopravviverà ancora qualche mese, lo stanno tenendo in vita artificialmente a furia di mazzate sulle pensioni, sulla casa e sui risparmi. Quindi prima si prende atto che bisogna recuperare sovranità monetaria, meglio è. Renzi non ha la voglia e il coraggio di farlo, quindi bleffa. Però rispetto ai premier precedenti, insomma, ha alzato un po' più la voce o no in Europa? Portando a casa zero. Puoi alzare la voce a Roma e poi andare a Bruxelles e dire, se a Bruxelles mi dici rispetterò il fiscal compact, rispetterà il patto di stabilità, rispetterà i tetti di deficit demenziali e non mette in discussione l'euro, che è uno strumento di distruzione di massa dell'economia, puoi alzare la voce 1, 2, 3 volte, ma poi non mi porti a casa niente. Quindi voi che cosa sognate? Un ritorno alla lira? Cioè, quali sono le opzioni? Noi stiamo preparando il dopo. 2 ipotesi, o un euro a 2 velocità per aree economiche omogenee, o ritorno alle monete nazionali. Pure una padania libera con una propria moneta? Assolutamente sì, più corrispondente al valore reale dei nostri prodotti. Una moneta meno campata per aria e meno forte farebbe ripartire i consumi, il lavoro, la produzione e quindi gli stipendi. Ma all'interno della Lega ci sono un po' posizioni diverse, posizioni un po' più sfumate, anche, non so, il sindaco di Verona aveva detto che uscire dall'euro costa carissimo, non si può tornare indietro. Come le conciliate queste diverse posizioni? La Lega è bella perché ha persone di estrazione sociale, politica e culturale diverse. Detto questo, i dubbi iniziali di tanti sull'euro sono rimasti dubbi di pochi. Uscire sicuramente è un rischio, stare dentro è morte certa. Quindi fra un rischio calcolato e la morte certa io preferisco rischiare. Ma anche il Movimento 5 Stelle è un movimento, come dire, euroscettico, ma ha detto di no all'offerta di Marine Le Pen. Non è per il no all'euro. Se poi calcoliamo che il fronte comune con la Le Pen si basa sul no all'euro e Grillo non lo dice. E il no all'immigrazione clandestina di massa, e Grillo e i suoi parlamentari hanno cancellato un pezzo di Bossi Fini, e voi capite bene che Grillo con la Le Pen non ci azzecca proprio niente. La contestazione che fanno a voi leghisti è che criticate l'Europa, poi però avete tanti europarlamentari che lavorano lì, che percepiscono un autostipendio. Se vuoi cambiare l'Europa, devi essere in Europa. Se vuoi cambiare l'amministratore del condominio che ritieni un ladro, devi essere presente in assemblea di condominio. Bisogna esserci. Fino ad oggi eravamo solo noi. Se avremo questa alleanza con i francesi, con gli austriaci, con gli olandesi, gli inglesi e gli svedesi, non saremo più soli e riusciremo a incidere anche di più. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Eccolo quindi tra poco l'ultimo ospite di questa sera. Allora, abbiamo parlato di spending review a proposito di province, la riforma che adesso fa il suo iter al Senato, e Renzi che ha promesso via l'indennità a 3.000 politici. Poi con l'economista Perotti abbiamo parlato del tetto agli stipendi dei dirigenti della pubblica amministrazione. Ci sono molti vostri messaggi sulla pagina di Effetto Notte su Facebook. E poi il commissario Cottarelli ha parlato però nei giorni scorsi anche di tagli alle forze dell'ordine nel suo piano di risparmio. Allora, saluto Felice Romano. Buonasera Romano. Buonasera a lei, radioascoltatori. Segretario nazionale del SIULP, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia, perché oggi il ministro dell'interno Angelino Alfano si è incontrato, no, con i sindacati delle forze dell'ordine, in particolare della polizia. Di cosa avete parlato e quali sono state le conclusioni, almeno per ora, Romano? Guardi, noi al ministro abbiamo detto in modo chiaro che il progetto che il dipartimento aveva preparato non era una spending review, men che meno una razionalizzazione, ma una decisione di arretramento con una chiusura selvaggia di presidi di polizia, ben 263, senza un'ottica complessiva del sistema sicurezza, che non è quello che ha indicato Cottarelli. Cottarelli ha detto che bisogna fare maggiore sinergia tra le varie forze di polizia, perché vorrei ricordare ai radioascoltatori che noi in Italia, come altri paesi in Europa, abbiamo un pluralismo di forze di polizia che garantiscono la sicurezza. E noi abbiamo rivendicato proprio questo, innanzitutto una questione di metodo, cioè la questione va affrontata nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, dove siedono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e anche le altre due forze di polizia, benché a competenza specifica, penitenziaria per le carceri e forestale per la tutela dell'ambiente, e in quel tavolo ragionare come razionalizzare, evitando le duplicazioni e gli sprechi qualora ci sono, ma non facendo una chiusura in modo lineare che non risponde né alle esigenze dei cittadini e soprattutto non procura nessun risparmio, perché questo progetto porta a casa, se va bene, 3 milioni di risparmio. Quindi siete, Felice Romano, per una razionalizzazione, ma sedendosi a un tavolo e vedendo, come diceva lei, dove ci sono sovrapposizioni, dove ci sono sprechi, senza tagliare in modo lineare. E il ministro Alfano che cosa ha concluso per ora? Ma il ministro ha detto che intanto quello non era una decisione, ma era uno studio in fase di analisi che attendeva ancora i pareri dell'autorità di pubblica sicurezza e il confronto con i sindacati. Noi insieme a questo abbiamo detto però che c'è un problema grosso e che io ringrazio lei per questa occasione. Noi stiamo parlando di un comparto dove i poliziotti guadagnano 1.300 euro al mese e che hanno un contratto bloccato da 5 anni, ma soprattutto hanno una cosa devastante, perché sta mettendo in discussione la catena delle responsabilità e quindi della funzionalità della stessa funzione di polizia, mi scuso per il gioco di parole, che si chiama il tetto salariale. Cioè, in sostanza, oggi un poliziotto, quando ha una promozione, assume una responsabilità maggiore, non percepisce anche il relativo compenso che è previsto per legge. Questo sta creando una grossissima demotivazione che, insieme ormai alle circa 17.000 unità in meno che abbiamo, sta pregiudicando veramente il sistema e il funzionamento. Ma secondo lei, Romano, quindi non si tratta di prepensionare qualcuno, di mandare a casa qualcuno, di tagliare insomma posti, ma di cercare di evitare gli sprechi, anche perché altrimenti fino a poco tempo fa si parlava del fatto che le macchine della polizia non avevano i soldi per il carburante, non potevano... Siamo sempre nella stessa condizione purtroppo. Infatti l'unico modo per creare risparmi nel sistema sicurezza, così come si sta agendo, è tagliare il personale, con il rischio che noi avremo questo paese 80.000 poliziotti in meno. Se questo è il progetto del governo, io credo e mi auguro che qualcuno come noi cominci ad alzare le antenne, perché il rischio è quello della militarizzazione della sicurezza, perché ormai qua i poliziotti si tagliano, ma i militari si utilizzano per tutte le funzioni di polizia. Senta, ma per chi più volte ha detto forse dovrebbero uscire più dagli uffici e andare in mezzo alle strade per assicurare la sicurezza per i cittadini, scusi anche lei il bisticcio di parole, come siamo messi da questo punto di vista? Guardi, questo è un falso problema, l'abbiamo già spiegato altre volte e la ringrazio per questa domanda. Il problema non è mandare fuori i poliziotti dagli uffici, il problema è fare una riforma per togliere dei compiti che con la polizia non hanno nulla a che vedere. Faccio un esempio: il rilascio dei passaporti, il rilascio dei permessi di soggiorno, il rinnovo dei permessi di soggiorno. La polizia dovrebbe fare il contrasto all'immigrazione clandestina, non il rilascio burocratico, ma fino a che il rilascio del passaporto sarà un'autorizzazione di polizia, per forza il poliziotto lo deve fare. Ecco perché noi diciamo bisogna agire a monte. Chiarissimo, grazie Felice Romano. Intanto poi anche questo è un settore, una situazione che andrà man mano chiarita. Adesso Cottarelli ha fatto gli annunci, qualcosa comincia a muoversi, vedremo poi come proseguiranno. Grazie Romano, noi ci lasciamo per qualche momento, come sempre, poi ritorno per ricordarvi i fatti principali.